Vabbè, io intanto attivo la registrazione, poi ci pensiamo. Ah sì, tanto se si può tagliare un attimo. La questione è anche questa, che quando poi mandiamo, cioè dovrei mettermi ad aggiustare un po', a fare post-produzione. No, per quello dicono magari non mandare la registrazione in modo tale che, cioè, come se fossimo in diretta, ma non siamo in diretta. E poi si sistema dopo. Per me è così, io ci mando anche sta roba, non è un problema. Ok. I rutti. Vabbè, oggi sarà un po' su, forse anche sulla dieta in generale, che a sto punto. Sul cibo. Sì, se ci viene da dire qualcosa. Dopo che ieri sera ho sgarrato il mio vegetarianesimo. Vabbè, lo dice così. Mamma che ha portato le olive all'ascolana. Cazzo dovevo fare? Forse per la mamma. No, perché mi ha messo un po' una pulce mia madre, dicendomi: ma sì, dai, per una volta, che te ne frega, mangiale. E mi ha colpito questa cosa, sì, che mi ha detto. Però ci sta, cioè non era comunque la polpetta del cazzo. No, infatti, cioè olive all'ascolana, ascolane. Animali comunque trucidati, però lavorati a mano. Lavorati a Mario. Bene, quindi in verità siamo mezzi pronti. Al suono delle nostre fiatate di sigaretta sui microfoni, mettiamo quindi Manuel Agnelli con la sigla dei Primus. Mettiamo Manuel Agnelli che accende la sigaretta. Esatto, bravo. Con questo suono, sempre bello. No, non mettiamo Manuel Agnelli comunque. Vabbè, visto che siamo già live, io dirò che se avete ascoltato la prima e siete ancora qua, siete coraggiosissimi, non tanto perché noi siamo bravi come Barbero e Luca Bizzarri, ma perché la mole dei quanto temi affrontati è veramente difficile da gestire. Bentornati. E partiamo con puntata 1 in realtà. Puntata 1 perché sì, era un pilota. Era un pilota. Abbiamo deciso di avere una sigla in particolare per l'inizio, che dura 30 secondi, però è una sigla abbastanza famosa, direi che la mando. Voilà. I'm going down south, I'm gonna have myself time. Friendly faces everywhere, humble folks without temptation. I'm going down south, I'm gonna leave my woes behind. Ample parking day or night, people starting party never. And on up south, I'm gonna see if I can't unwind. Eccoci. Fortissimo Kenny, sempre col cappuccio. Sì. Fateci sapere se il fondo è troppo alto scrivendoci a info@ o su Signal o su WhatsApp o su Instagram. Su Signal. Ah no, non è vero, è una registrazione, spoiler. No, quindi non c'è diretta. Accettiamo chiamate in diretta, non sì, siamo in diretta. Esatto. Niente, oggi siamo un po' impegnati, quindi abbiamo deciso di fare questo scherzo anticiparla. Voi fate finta di scriverci lo stesso, così li vediamo dopo e ci divertiamo. Yes. Tanto allora, non sapete chi siamo, quindi. Esatto, vabbè. Ma penso che le uniche persone che ci ascoltano siano persone che sanno chi siamo, bene o male. Se ci ascoltano. Bastardi. Comunque oggi, oltre alla molla, abbiamo anche la campanella. Vediamo quanto casino fa. Accettabile. Molla. Perfetto. Ok, puntata di oggi. Puntatone. Joe, questa qui, ha deciso di prenderla in mano e gestirla in maniera più personale della scorsa, nel senso che la scorsa era un po' più caotica su tematiche varie, e invece questa ha un tema. E il tema è? Il glutine. Complimenti di nuovo se ce l'avete fatta sopravvivere al pilota. E oggi parleremo di proteine. Una proteina in particolare, che in verità forse sono più di una, è un composto. Infatti, esatto, cos'è il glutine intanto? Perché allora, io non lo so. Io neanche, non ho voglia di andare a cercare onestamente. Vi basti sapere che è una specie di proteina nel grano e in vari grani, e che è composto da, per esempio, una prolammina nota con il nome di gliadina, contenuta nel frumento è responsabile dei principali fenomeni di reazioni avverse nei soggetti allergici. Sta leggendo Wikipedia, che gli ho aperto prontamente. E una particolare gluteina, la glutenina, presente principalmente nell'endosperma, no, non diciamo parolacce, Giova, della cariosside dei cereali, quale frumento, orzo e segole. Quindi, di base, quindi è un insieme di proteine contenute in ciò che viene estratto da alcuni cereali, sostanzialmente. Sì, sì, è proprio dentro i cereali, quindi finisce nelle farine che, con cui poi si fa la pasta, con cui si fa il pane, con cui si fanno le panature. Qualsiasi cosa che contenga farina o insomma questi cereali, frumento, orzo, segole, ma anche altri, e tutte le loro varie varietà, ne hanno più o meno, e parleremo parte anche di questo, contengono queste proteine. E cosa succede però? Di recente, tra virgolette, perché ormai è decine di anni, oltre alla celiachia, che è sempre esistita e sempre esisterà e c'è ed è un problema per alcune persone, c'è un po' più di attenzione barra una moda anche a livello di chiunque che non sia effettivamente affetto da una sensibilità o da, anche quella vedremo se esiste veramente la sensibilità al glutine o meno, o da un'effettiva allergia o celiachia, ecco. Ok, e infatti quando mi si parla di glutine, più che al pane, penso proprio alla celiachia. Mi viene in mente più la celiachia. Sì, sì, so sì. Se è mai capitato nella vita di avere l'amico, l'amica, l'amico celiaca, che appunto la prima volta che hai a che fare con queste persone, almeno per me, ero entrato in una grossa paranoia esistenziale, nel senso che mi ricordo questo amico con cui facevamo viaggi, vacanze, eccetera, e questa persona, non potendo mangiare glutine, c'aveva la sua pentola, la sua pasta, il suo pane. E ricordo che scorreggiava puzzolentissimo, tra l'altro, poverino, perché non so perché, ma questo è un ricordo che ho. E quindi sì, mi viene in mente subito quello. In realtà, appunto, come dicevo prima, la cosa è che questa puntata l'ha preparata principalmente Gio. Io sarò un po' la controparte che ascolta e prova a capire e prova a criticare, in caso. Sempre ste scuse per farmi fare il lavoro sporco, ma poi in verità sì, anche tutti sporchi le mani. No, certo. E quindi non so se poi il punto di partenza che avevi in mente proprio era la celiachia in sé, o se volevi. Ma anche la celiachia in sé, cioè, è un bellissimo spunto, un giustissimo spunto parlarne, perché appunto ci sono anche diversi gradi di allergia o celiachia, nel senso che a seconda di quanto sei conciato male, è anche rischioso, gravemente rischioso, assumere glutine. Quindi c'è dall'attenzione massima che devi avere, appunto, quindi con padelle diverse o zero contatto assoluto con sì, nessun tipo di farina che contiene glutine, ok, posso anche sbattermene, perlomeno cucinare con le stesse cose può andare bene, non vado a mangiarmi il tozzo di pane bianco, e sopravvivo. Quindi non sbatti, in verità, perché poi c'è tutta una serie di complotti, tra virgolette, di ristorazione, per cui cioè, avere una cucina praticamente in un ristorante, se vuoi fare il cibo per celiaci, devi avere una cucina completamente separata, sterilizzata costantemente. Esatto, immagino. Cioè, non può arrivarci neanche la polvere di farina, perché se ti capita il celiaco peso, tu non puoi, non puoi fare il tuo marketing dicendo che fai la pizza con la farina giusta, se poi la stendi sullo stesso piano delle altre pizze. Ok, no, infatti proprio la mia paranoia di cui parlavo prima era questa, cioè questo ricordo del fatto che evidentemente questo mio amico aveva anche una celiachia abbastanza importante, quindi la sensazione era che proprio fosse in uno spazio di sopravvivenza molto ridotto, in cui tutto doveva essere in un certo modo, perché veramente poi rischi di cagarti addosso, fino a veramente magari stare molto molto male. Sì. Io non so adesso se arrivi addirittura alla morte, insomma. Beh, un altro, se esageri forse. Sì, però. Sì, un altro argomento interessante è appunto le conseguenze dell'ingestione del glutine, sia per i celiaci, ma in parte anche per tutti, perché una parte del complotto sul glutine è, come anche c'è in South Park, ragione per cui abbiamo messo la sigla di South Park, esatto. È che è infiammatorio per tutti. Questo non è necessariamente vero, almeno io non sono giunto a una conclusione. Mi piacerebbe sapere se, per esempio, tu, quando mangi un botto di farina bianca o lievitati o pasta, ti senti più o meno pesante, caghi più o meno bene o male, o al di là del fatto che ti stai facendo una botta di zuccheri e quindi, esatto, quindi poi te ne fai un botto e magari dopo che stai iniziando la digestione, dopo che hai mangiato, bam, ti stendi e vabbè, quello ok, va al di là del glutine. Però insomma, o sei mai provato a levarlo dalla tua dieta? No, perché è una delle mie cose preferite, la farina. Cioè proprio mi piace in tutte le sue forme. Più glutinosa è, meglio è. No, non ho mai provato a levarla. Non l'ho, forse sono estremamente fortunato e ho un intestino che lavora bene da quel punto di vista, però non ho mai avuto grossi problemi di gestione, piuttosto che insomma di regolarità con il bagno legato alle farine. Cioè non l'ho mai associato a quello in qualche modo. Perché poi, tra l'altro, sempre per parlare di dieta più in senso lato, c'è una specie di complotto magari anche sui formaggi. Io per qualche anno fa c'era un amico che mi diceva: ah, ma se tu c'hai sempre il naso che cola, piuttosto che produci tanto muco o non ti senti tanto bene, così sei infiammato perché stai mangiando troppi latticini. E l'uomo non è fatto per mangiare troppi latticini, perché dovrebbe smettere di bere il latte materno. Certo. E anche lì, in verità, non è così semplice come i latticini infiammano tutti allo stesso modo. Non è che sono tutti celiaci o tutti sensibili al glutine o ai latticini, ma ogni persona è diversa. Io, per quanto ne sapevo dei latticini, per esempio, il mondo si divide in tre. Okay. Persone che li tollerano sempre, per tutta la vita. Persone che a un certo punto, se smettono di mangiarli, perdono quegli enzimi per digerirli. E persone che invece non possono, che hanno degli sbatti a digerirli e non possono recuperare o da sempre ce l'hanno. Ma e tu invece che rapporto hai? Perché io sono una persona che si fa anche non troppe domande riguardo l'impatto di un cibo sul proprio corpo. Io, per esempio, come dicevo, sono vegetariano e non è una scelta legata al mio benessere fisico, è più una scelta politica, una scelta politica e morale. Quindi non mi sento di appartenere a quel gruppo di persone che si chiede: ah cavolo, ieri ho mangiato questa cosa, non andava fatto in quell'orario perché magari mi sono abbuffato di carboidrati la sera e poi mi sono messo subito a letto. Cioè, perché evidentemente non ho quel genere di fastidi. Insomma, c'è gente che magari si mangia una pizza e poi passa le notti abbracciato al cuscino a piangere. Quindi, non essendo da quel lato, magari conoscendoti un po', so che tu sei una persona che si fa un po' più queste domande. Quindi tipo, il tuo rapporto invece col glutine? Allora, sì, col glutine in particolare in verità non ci ho mai troppo pensato. Però da diverso tempo, e sgarrando sempre comunque ovviamente, essendo una persona che comunque non ha troppi sbatti dietistici, cioè nel senso troppi sbatti a livello digestivo, ecco, sono un po' una fogna, una spazzatura, quello che si direbbe, quello che avanza in tavola me lo tiro su e me lo porto, anche perché mi scoccia che avanzi qualcosa. E sono magari più attento al fatto di non mangiare solo pasta bianca, pane bianco, cibi raffinati, ma più per una questione di dieta generica, apporto di carboidrati generico, che non siano solo zuccheri semplici, ma che abbiano anche, quindi pane nero, anche fibre e altri nutrienti che nel pane bianco vengono eliminati apposta per avere il pane bianco, che ha le sue caratteristiche di gusto diverse, che si adattano ai condimenti piuttosto che lievitano meglio, quindi sono più belli, più croccanti, più morbidi allo stesso tempo. E questo è anche un po' un complotto, perché una volta il pane per i poveri, diciamo, era il pane nero, perché era molto facile prendere il grano, macinarlo e poi ti facevi il pane, non stavi lì a togliere parti del grano, cioè era un processo in più. E infatti adesso invece il fatto che il pane nero costi di più di quello bianco è un controsenso. È un controsenso, perché comunque quello bianco passa attraverso dei processi di raffinazione o anche solo di setacciamento, comunque dei processi in più, quindi dovrebbe essere quello bianco che costa di più. Invece solo per una questione di mercato, tra virgolette, non è solo di vendita. Sì, l'healthy, famoso healthy, famoso... Ci sono semini, quindi ci fa più bene, quindi cioè, fa non più siamo bene. Uccellini, è integrale. Tutti. E, sì, non solo per quello, ovviamente, perché le industrie poi si sono adattate a fare... Alla produzione, certo. Quindi ovviamente a un certo punto costa anche meno rispetto a fare quello nero, non so in Beh, che anche modo, perché però. Banalmente la richiesta è maggiore di quello bianco rispetto a quello nero, quindi puro mercato che... al di là del marketing. Esattamente lo stesso motivo per cui ci sono hamburger che costano meno di, non lo so, peperoni buoni, dell'insalata banalmente al chilo. Esatto, perché appunto il mercato richiede carne, richiede farine bianche, quindi di conseguenza. Minchia, sto diventando anch'io come te, io devo fare la controparte, invece mi sto allineando. Vabbè, bravo, stai facendo un buon lavoro, evidentemente. Sì, vedo di sì. Va bene, mandiamo una prima canzoncina, direi. Sì, dai. Allora, la prima canzone è molto a tema, nel senso che è un pezzo dei Camillas, che si chiama appunto La canzone del pane ed è... forse è una delle più grandi canzoni d'amore, secondo me. Benedetti. Di una dolcezza e sincerità veramente schiaccianti. Cioè, lui che dice alla sua amata, suo amato, insomma, di vieni qua che ti posso offrire il pane se vuoi. Possiamo amarci con quello, quindi molto molto bello. Non l'hanno fatta in Covid, quando era partito della panificazione. No, è prima, giuro che è prima. Sarà, penso, del 2010 questa canzone, giù di lì. Un po' più avanti forse. Fortissimi. Questi sono i Camillas con La canzone del pane. Casa tornerai, vieni mia cos'era questo? Un xilofono o un citofono? Tong pan? Non lo so. Io so. Non so. Forse è tutto sintetizzatori. Può essere. Beh, insomma, questa celiachia, questo glutine, cosa fa? Che sia poi da capire se lo fa a tutti o solo ad alcuni o in o quanto, ecco. In teoria è una causa un'infiammazione, un accorciamento dei villi intestinali, no? Che per quanto mi riguarda io considero molto come, magari non solo io, ma una parte fondamentale del nostro corpo, perché assorbe tutto quello che mangiamo o parte di quello che mangiamo, e dentro ci sono tanti batteri che potrebbero essere loro che ci controllano, quindi un po' io a me piace pensare un po' a una specie di cervello secondario, un coorganismo che vive con noi e in parte ci controlla. E però questo glutine infiamma l'intestino tenue, e qual è il problema? È che poi dall'intestino tenue non è solo un problema di caccarella o di digestione, ma si creano un sacco di altri sbatti, perché va a intaccare il sistema nervoso piuttosto che Anche banalmente il proprio stile di vita, cioè quello comunque pesa poi sotto forma di stress, pesa quello, sotto forma anche di relazioni sociali e tutto via dicendo. Quello, cioè, assolutamente è un gigantesco c'è anche tutto sbatto. Un discorso psicologico, penso, legato a questo genere di malattie che comunque poi intaccano la tua vita sotto diversi punti di vista. Assolutamente, io se penso che se mi faccio un taglietto sulla mano mi viene la tosse, divento intrattabile. Quando si dice la salute prima di tutto, salute viene mangiando, la salute viene mangiando, non la farina. Sì, è un gigantesco sbatti. E comunque le persone che appunto sono affette da infiammazioni croniche devono essere fortissime certo. E lottare, sono dei grandi, grandi voi, raga. Esatto, leggevo che la malattia può interessare da una persona su 1750 e apparentemente nel resto del mondo, rispetto invece agli Stati Uniti, che interessa da una persona su 105. Ragione per cui già da qualche anno South Park ha deciso di... Esatto, di probabilmente negli Stati Uniti puntata. È una questione ben più grande rispetto a magari qui in Italia, nel senso sì. Che è una tematica un po'... Ci sono un po' di complotti anche a riguardo, che appunto chiamiamo complotti perché effettivamente probabilmente non se ne è ancora venuti a capo, quindi sono teorie, diciamo, secondo cui per esempio alcuni grani OGM che negli Stati Uniti sono prevalenti rispetto in Europa, che con delle leggi si è tenuto un po' più a favorire dei grani antichi piuttosto che delle varietà. Mm-hmm. Al di là degli OGM, contengano più glutine in percentuale nel grano, nel chicco, e quindi causa più infiammazione e più casi di celiachia a persone che magari con una percentuale minore di glutine se la potrebbero ancora cavare, aumentando il glutine soprattutto per processi industriali, perché poi il fatto che ci sia più glutine appunto aiuta a diminuire i tempi di lievitazione, di preparazione, e quindi diventa tutto più facile a livello industriale. Certo. Produrre molto americana come cosa, tra sì, l'altro. Sì, sì, molto produttiva, ecco, come ragione. Ok. Quindi il pane negli Stati Uniti com'è? Dei mattoni di glutine, delle belle gabbie glutiniche che noi ce le sogniamo a farle in casa con la farina zero. Che dai una spolverata di farina alla farina e sì, fai goccia d'acqua, goccia di farina e ti viene su il panettone di Natale da solo, con già dentro le uova praticamente. Chiaro. No, ma infatti, cioè, se è una questione in America ne parla South Park. Certo. Basta che diventi in qualche modo una moda, in qualche modo una tematica importante, sociale, eccetera, diciamo che South Park ne parla. E la cosa fantastica di quella puntata, che io invito per la 17ª volta ad andare a vedere, è che diventa un problema a livello nazionale e si creano delle zone di quarantena delle persone che hanno post-covid questa puntata? No, pre-covid, pre-COVID si creano delle zone di quarantena filo spinato, esercito a tenere dentro le persone che avevano anche solo nell'ultima settimana toccato il glutine. Ok. Perché c'è il rischio appunto che ti si stacchi il cazzo e voli per aria come un razzo letteralmente. Certo. Spoiler. Spoiler. Poi succede come sempre in South Park, tutti aspetti, è una follia, poi succede. Succede. Cioè, non l'ho vista, ma lo so, quindi. Esatto. E poi mi piacerebbe svelare anche la chiave, la soluzione della puntata. Ma sì, svelala. Sveliamola, se non l'avete vista siete dei cafoni o dei celiaci. Tipo io. Ve lo meritate. La svolta è che abbiamo sbagliato tutto riguardo alla famosa piramide dell'alimentazione, che vede alla base le verdure e i carboidrati, salendo sempre le proteine e poi alla fine i grassi. E Cartman in sogno riceve in sogno la soluzione, che semplicemente è girare la piramide, e quindi finiscono a una festa con i gelati di burro leccandosi il burro. Certo. Perché il grasso diventa la base della piramide e il carboidrato diventa e la verdura diventano l'ultima cosa da mangiare in certo. Piccole proporzioni. Certo, diciamo che poi come al solito South Park crea 7-8 strati narrativi e ce n'è uno che fa solo ridere, c'è uno che ti fa pensare agli Stati Uniti in che posto siano e come è sviluppata la società del posto, che non mi stupirebbe se Trump domani se ne uscisse con questa cosa e tutti a mangiare burro, ecco. Quindi. Sì, sì, ma perché poi lì si interseca un po' anche quella zona grigia in cui magari la scienza è ancora un attimo in sbatti, soprattutto nel momento in cui deve avere a che fare con le mode, con il prodotto, quindi il marketing, il fatto che si deve vendere per avere soldi per fare ricerca, e quel discorso per esempio del colesterolo, che a un certo punto sono bannati i grassi dalle diete di tutti e per poi tornare a pensare che però alcuni grassi fanno bene, sono essenziali, gli omega 3, gli omega 6. Il colesterolo non fa sempre solo male, ma c'è colesterolo buono, colesterolo cattivo. Adesso poi magari sto dicendo delle cazzate, ma... No, ho fatto le analisi del sangue, no? Ho fatto le analisi del sangue poco fa e avevo... mi sembra, se non dico una cazzata, sono proprio distinti colesterolo cattivo e colesterolo buono, se non ricordo male questa cosa. Esatto, quindi da diete... grasso, senza grasso, si è passati a dire ok, magari il pesce includilo nella dieta, le noci piuttosto che anche il burro, se non è magari la margarina industriale mega processata con solo il colesterolo cattivo, te la puoi fare la fetta biscottata con pane burro e marmellata. Esatto. chiaro. Infatti, quindi cos'è che è un po' dietro il complotto del glutine? È un po' gli OGM, okay. Quindi il nuovo ordine mondiale, gli OGM, tutti che vogliono un grano che produca il 150% rispetto all'anno precedente ogni anno e che abbia più glutine, quindi anche per poi facilitare, cioè proprio un grano ingegnerizzato per favorire la produzione di pane bianco, punto. Ok. Poi un'altra roba che a me fa incazzare di brutto è che spesso nei supermercati, anche nelle panetterie, ti trovi i pani neri che tu dici ok, me lo mangio perché così ho una dieta più equilibrata, e poi il pane nero non è nient'altro che pane bianco con dentro il malto, che è zucchero tostato, quindi per di più, quindi è bruciato, e dici porca troia, ma certo. Perché mi vendete un pane che costa di più? Certo. Con quattro semi di girasole sopra. Quattro semi di girasole, invece è zucchero tostato con altro zucchero e glutine, vabbè. Chiaro, perché tu sei una persona che si fa domande a riguardo. Sì, leggo un sacco di etichette, soprattutto. Sì, sei bravo. E anche voi ragazzi, soprattutto se siete celiaci, ma già lo sapete perché siete nella merda, e mi dispiace, leggete sempre le etichette e avvisate sempre, perché... un sacco di prodotti che noi non ci immaginiamo, ma appunto come potrebbero essere delle noci, piuttosto che anche la bresaola, che in teoria è pura carne, che cazzo ne sai, magari è stata prodotta nello stabilimento in cui si sniffano farina di grano turco o di grano, grano turco in teoria non ce l'ha, e quindi è contaminata e quindi c'è scritto glutine sull'etichetta, motivo per cui poi hanno dovuto aggiungere l'etichetta gluten free su ogni singola cosa, okay, che era gluten free, perché appunto non è scontato che un gin tonic sia gluten free a quanto pare. Ok, ok, vedi, non lo sapevo questa cosa. Eh sì, è un bel dramma, insomma. Sì, beh, è un tema più che altro, vabbè, intanto di immagino legato alla sanità. Sì, anche perché poi i celiaci hanno un bonus, mm-hmm, hanno una, sul tesserino sanitario possono usarlo per acquistare la pasta in farmacia. La pasta in farmacia, esatto. Una volta, tra l'altro, c'erano solo in farmacia i prodotti. Adesso ci sono negozi, adesso anche sì, nei supermercati trovi, ah, okay, sezioni dedicate. Noi abbiamo i crecherini qua, se, esatto, volete venire a mangiarvi, esatto, un tagliere con i crecherini. Esatto, che apparentemente sono anche buoni, dicono. Sì, sì, cioè, infatti tra l'altro lì c'è la tematica, dici, sì, perché senza glutine ma è lo stesso buono. Forse non è il glutine. Forse non è il glutine a far buona. Poi c'era la pubblicità che è andata a ripetizione per anni dei crecherini scotti, sì, col riso senza lattosio. Senza lattosio. Senza lattosio, ma anche probabilmente senza glutine. Okay. Sì, col riso, senza latte. Ah, questo sì, dovremmo mettere. Okay. Cioè, ha lavato il cervello di migliaia di persone, per cui alla fine, anche se effettivamente non hai un'intolleranza grave o un'intolleranza qualsiasi, vai al supermercato e te li compri pensando che ti facciano bene. E lì sta a ognuno di noi capire se effettivamente ci infiamma qualcosa, non è facile, o magari ci infiamma di più quel prodotto senza lattosio e senza glutine, perché comunque per farlo ci sono dei processi e altri ingredienti che invece a noi fanno peggio. Non c'è scampo, insomma. Non c'è scampo, è un bel puttanaio, la vita è un puttanaio, lo sappiamo. Va bene, dai, ascoltiamo un'altra canzone e poi dopo approfondiamo il discorso GM, che mi incuriosisce molto. Super. Va bene. Il prossimo pezzo è Sinner, di questa band che si chiama The Last Dinner Party. L'ultima cena. Esatto, e spaccano molto, sono degli ultimi anni e mi piacciono un non sacco. Non pensate che all'ultima cena il pane che hanno spezzato fosse come quello, bravo, che ci mangiamo oggi. Il pane che ogni domenica viene spezzato. L'ostia al glutine. L'ostia è col glutine. Full glutine. Full glutine. Colpa dei poteri della Chiesa, del Vaticano. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew you, but I have gotten too tall. I wish I knew you when touch was innocent. I wish I knew you before it felt like a sin. Side turns to gray. For me, give me so. Voilà. Voilà. Reg Wakes. Ah, bravo, esatto. Come dicevo l'altra volta, questo sottofondo che non sentite. Esatto, che forse si sente. L'altra volta si è sentito per metà puntata, poi un po' meno. E comunque sì, mi piaceva l'idea di mettere un sottofondo, che sono sempre, appunto, come dicevo, colonne sonore tratte da videogiochi, anime, film, eccetera eccetera. E questa qui, appunto, tratta, se la scorsa era tratta da un videogioco, questa invece è tratta da un anime che si chiama Made in Abyss. E è un anime molto particolare, tratto ovviamente da un manga che, se non sbaglio, ancora non è terminato. Ci sono 3 stagioni dell'anime e è la storia di un luogo non luogo, nel senso che c'è un'isola in cui non si sa bene perché si è creato un abisso. Un abisso in cui ci sono questi cacciatori di tesori che vanno e cercano, insomma, di trovare tesori all'interno di questo abisso, perché ci sono oggetti di una tecnologia avanzata di cui non sai l'origine, piuttosto che, insomma, tutte queste cose. E è un luogo maledetto in cui tu più scendi, più la vita diventa complicata. E c'è la maledizione dell'abisso, che è che se tu risali nell'abisso, tendenzialmente diventi celiaco. Esatto, muori male o ti succedono delle cose. Comunque è molto, molto interessante, è molto crudo, direi. Nel senso che i protagonisti sono due bambini e succedono cose estremamente pesanti e spiacevoli. Non ciò che ci si può immaginare legato a bambini, ovviamente, fortunatamente, però, insomma, ha una trama estremamente oscura e violenta e cruda, quindi consiglio, se vi piacciono un po' quei tipi di narrazione lì, da vedere. Ma ritorniamo agli OGM. Perfect. Allora, OGM... Intanto, prima degli OGM, mi piacerebbe evocare una pagina Reddit che... poi non troveremo più da nessuna parte, ma c'è, esiste, sono sicuro, in mezzo al puttanaio di Reddit, che invocava il complotto del... partiva dal glutine, ma poi faceva questo svarione, perché è stata postata sia nella sezione gluten free e celiachi, sia nella sezione complotti. Perché? Perché la risposta poi spesso a certi tipi di infiammazione, come potrebbero essere quella del colesterolo, piuttosto che quella del glutine, piuttosto che il lattosio o la caseina, o comunque la risposta spesso a tanti problemi dietetici o di dieta o di corpo, sono di periodo in periodo delle diete interamente basate sulla carne, quindi okay. la paleodieta, piuttosto che la keto, piuttosto che la Dukan, okay. Sono tutte diete famosissime che questa teoria del complotto spiegava come cazzo è possibile che ogni singola risposta a un problema che sorge ogni tot anni per cause del mercato, cioè cause evitabili anche in certi sensi, soprattutto se credi al fatto che sia un complotto, porti sempre a mangiare più carne, sempre okay. carne, solo carne. E quindi era un po' un'idea di complotto del fatto che, appunto, cioè, non c'è mai una soluzione che preveda il vegetarianesimo o il veganesimo, insomma, una dieta più equilibrata, ma sia ok, fottiti di proteine animali e uccidi animali e mangia solo bresaola per una settimana, vedrai che stai bene. E niente. Ma perché? Perché io non le conosco queste diete, a parte quella Dukan, di cui mi ricordo il periodo di follia in cui c'era tutta la gente che la faceva. Vendite di bresaola. Esatto, alle stelle. Esatto. No, tra l'altro, ora che ci penso, l'unica dieta che ho fatto nella mia vita, in cui ero arrivato a pesare troppo, che mangiavo, bevevo di merda, ma cioè, nel senso, non che adesso io sia bravo, però mi ricordo che è stata la mia dieta in cui mangiavo infatti un sacco di bresaola con i cracker a pranzo. Ho perso tipo 17 kg in un mese e mezzo, quindi cioè, era stato strano. E perché dalla, cioè, la mia domanda è: perché dalla carne ricavi nutrienti che sostituiscono magari cibi che hanno anche altri nutrienti che però fanno ingrassare, fanno male? Sicuramente la carne è un concentrato di nutrienti che non si trova da nessuna parte, e in nessun altro cibo, a livello di vitamine, proteine, grassi a seconda del taglio della carne, e sali, anche troppi ovviamente se sono affettati. Infatti in verità non fa bene mangiare solo affettati o un botto di affettati piuttosto che anche solo carne, soprattutto nel momento in cui mangiamo carne d'allevamento, di allevamenti osceni. Quindi se ti mangi i polli che trovi nei scaffali ai supermercati, piuttosto che i salmoni, anche quindi il pesce, piuttosto che i manzi, i maiali, sono animali che non stanno bene, sono infottati uno sopra l'altro, vengono nutriti a merda di antibiotici, e tutto quello che deriva dalla loro carne è il loro, è quello che processano loro, e poi lo processiamo noi, quindi in verità... Sì, perché effettivamente vai a mangiarti il corpo di un essere vivente che ha vissuto una vita di merda. Cioè, e quello, cazzo, non ci avevo mai pensato. A parte che impressione dire vai a mangiarti il corpo, molto strano. Cioè, fa un po' cagare. Ma effettivamente è chiaro che se lo standard di vita è quello, anche... come dire, valori nutrizionali, valori che può, positivi che può portare una dieta di carne, magari vengono un po' bruciati. Sì, sì, soprattutto appunto nel momento in cui mangi solo questo, cioè nessuna dieta, io penso, sensata, a meno che non ci siano proprio delle esigenze personali molto mirate, dovrebbe né diventare una moda né prevedere l'esclusione di una grande varietà di alimenti, e questo è un po' il concetto alla base della dieta varia ed equilibrata. Non puoi pensare di escludere la maggior parte degli alimenti e nutrirti solo di bresaola perché devi perdere chili, piuttosto che con me ha funzionato. No, certo. No, ma appunto, no, non lo consiglio, però con me ha funzionato. Se l'obiettivo è perdere chili, cioè puoi fare qualsiasi cosa. Sì, sì, va in palestra e solleva pesi, cioè, esatto. Però insomma, l'idea alla base del complotto, tornando al complotto, era che in verità la maggior parte del mercato, nonostante ci siano queste nicchie vegetariane e vegane, ma sono molto molto piccole, sia guidata dai produttori di carne, e che quindi a ogni risposta, come risposta a ogni tipo di sintomo nella popolazione, si spinga una dieta a base di carne e mai qualcos'altro. Certo. Perché tutto il mondo ormai è incentrato su grano bianco ad altissima produzione, ad altissima efficienza, grano turco ad altissima efficienza, carne ad altissima efficienza, quindi OGM per aumentare l'efficienza, ingegneria genetica piuttosto che selezione anche naturale, ma anche artificiale, anche a livello dei capi di bestiame. Poi in teoria la selezione artificiale, la selezione genetica a livello animale non dovrebbe essere permessa, così come lo è invece a livello delle piante. E in Europa neanche quella delle piante, nonostante poi tu possa importare grano dall'America, nonostante poi i mangimi di tantissimi animali non siano regolamentati a riguardo, quindi o comunque ci sia una regolazione che permette gli OGM, quindi comunque gli animali si mangiano qualcos'altro rispetto a quello che ti mangeresti tu più volentieri. Certo. E niente, insomma, secondo me è improbabile che parta dal consumatore una rivoluzione, nel senso è troppo comodo andare all'Esse Lunga prendersi le melanzane fatte in serra in Spagna, piene di plastica e pesticidi. Per 80 centesimi l'una, esatto. Non è scontato, soprattutto se andiamo a vedere poi anche il periodo storico in cui siamo, in un momento in cui è chiaro che i prezzi, anche proprio 2024, ci sono i prezzi che si stanno alzando anche banalmente del cibo del 20-30% ai supermercati, quindi è normale che è sempre conveniente comprare quel genere di prodotti. È chiaro che è veramente un discorso complicato, perché tu hai il sistema da una parte, un sistema solido che ti, sì, che, solido, che ti tiene, ti tiene per solido le palle. È solido di solito finché non collassa, perché è quello che vediamo a livello di sanità pubblica. È che poi a un certo punto collassano questi sistemi, no? Quindi vengono epidemie a livello del bestiame, passano all'uomo, certo. In continuazione, succede una volta ogni 10 anni, potrebbe mm-hmm. succedere tranquillamente più spesso, magari succede più spesso ma vengono contenute, certo. Quindi ci sono delle sì, magari succedono dall'altra parte del mondo e quindi tendenzialmente noi siamo non riescono ad arrivare in a Giappone volte mi ricordo che succede costantemente questa cosa dell'aviaria delle galline, cioè non so, è un ricordo nella mia testa che sì, sì, succede, però è chiaro che è dall'altra parte del mondo, quindi vedi un servizio del telegiornale con delle persone con la mascherina, dici oh, vabbè, ok, e la mia vita va avanti perché tanto è in Giappone, che era il stesso concetto del Covid, esattamente. E poi siamo stati i secondi a prendercelo. Eh sì, e soprattutto, beh, quello poi è stato mondiale, quindi insomma è stato... Sempre se non credete al fatto che c'era giusto un laboratorio che ricercava sui coronavirus, da cui sono uscite delle fiale, ma non sono loro i colpevoli. Silent Hill, insomma, quelle cose. Sì, esatto. Gli zombie. Esatto. I virus che si diffondono. Ci avevo sperato a un certo punto che venisse fuori una storia del genere. Venisse fuori una roba da zombie. Sì, sì, sì, ho sempre detto che mi piacerebbe una bella apocalisse zombie. Poi, che poi finisce, ma ripartiamo. Sì, esatto. Si facciano fuori tutti subito, io esatto. Sopravvivo easy. Ovvio. Ho visto troppi film sugli zombie per non... Se non li avete visti, guardateli anche voi. Così poi imparate qua, a sopravvivere. Sì, qua poi si entra nel mondo dei complotti da prepper. Eh? I prepper sono tutto un movimento di persone che si preparano. Bellissimo. All'apocalisse, diciamo. Quindi io non lo sono, ma lo sono. Nel senso autosostentamento, che... tecniche di sopravvivenza. No, vedi, quelle non ce le ho. Armi, ovviamente, perché per no, io saprei, so uccidere gli zombie, cioè so che bisogna sparargli in testa. Ma ogni zombie è diverso. Questo è quello che so. Ci sono zombie, io sarei che più... Sono già nel passo successivo, capito? Giusto. Va bene, ci ascoltiamo Desire dei Fontaines D.C. e ritorniamo tra poco. Desire of focaccina. Infatti c'è il desiderio, abbiamo messo desire proprio per questo, perché alla fine le focaccine del panettiere sono sempre un desiderio. Sono desire più profondo, sì, sì, di noi. Ho guardato che l'importante è tipo non so, c'è anche questa cosa su un po' la sua fazione piuttosto che il discorso di compensazione, no? Quindi anche quando ti fumi una sigaretta è importante che tu te la goda e che non te la fumi per il gesto di farlo, non solo, ma tipo stando male perché te la stai fumando. Ah beh, certo, certo, dicendo certo, ok, io questa focaccina me la permetto perché oggi ho fatto il bravo, per dire, certo, e non mangiandola col rimorso di starsela mangiando, ecco. Mm-hmm. Sì, che secondo me un po' si lega questa riflessione in generale a tutto quello che abbiamo detto in precedenza, cioè che è molto sistematico anche questo ragionamento, cioè noi cresciamo con questa cosa delle concessioni che ci diamo, mettendo sempre i bisogni degli altri al primo posto e mai i propri, e probabilmente anche nel consumo di carboidrati, di zuccheri, eccetera, c'è sempre molto questa tematica che ci dicono non esagerare, non devi, come dire, a fine giornata o oggi ho fatto tanto, quindi posso mangiarmi una focaccina. Sì, pure siamo stati cresciuti a Kit Kat, Duplo, Ferrero. Quindi siamo assuefatti, cioè, nella vita. Sì, io mi ricordo da bambino comunque perdevo un dente dopo l'altro, ma più per carie che perché erano da latte. E ciò nonostante nessuno mi diceva niente, sì, mi facevo la camomilla alla sera però con 7 cucchiaini di zucchero. Buona, senza zucchero. Madonna, fa schifo. Adesso per me è imbevibile lo zucchero, così come lo yogurt, ci mettevo dentro metà vasetto, diventava zucchero. E niente, un po' una questione di moda, abitudine, diventa quasi culturale forse. E lì diventa un po' un problema, perché poi noi siamo esseri abbastanza recenti, quindi prima che si iniziasse a fare la barbabietola da zucchero, lo zucchero non esisteva, era una spezia rara anche quella, e costava un botto, e invece quando è entrata a far parte della nostra produzione sempre più efficiente, è entrata a far parte della dieta con i suoi benefici e con i suoi problemi, così come anche la carne e qualsiasi altro tipo di prodotto da tavola, insomma, perché anche la carne, per dire, una volta se la sognavano le persone, certo, certo, perché non certo era facile. Ma fino a cos'è? 60 anni fa? 70 anni sì, fa? Sì, magari anche 100, se non mi ricordo male di aver letto qualcosa riguardo all'introduzione di razioni di carne nell'esercito italiano a cavallo del 900. Ah, ok, ok. E che da lì si è capito che era una fondamentale risorsa di nutrienti, e è stata poi estesa come moda, tra virgolette, come cultura anche alla popolazione, e da lì anche si è visto un miglioramento della salute, piuttosto che della statura, anche solo banalmente, delle persone. Perché giustamente, se tu per i primi 16 anni della tua vita, attraverso l'infanzia e l'adolescenza, ti nutri solo di zuppa di cipolle, potrebbe essere che qualche sbatti ce l'hai. Certo, cioè, tipo un alito molto pesante. Tipo trasudi cipolle, come succede spesso quando mangiamo la focaccia con le cipolle, pucciata nel cappuccino. Io vedevo qui, tra l'altro, stavo un po' informando sui numeri di consumo di pane in Europa, e leggevo che la Romania è al primo posto come nazione con 88 kg pro capite l'anno di pane consumato. Poi c'è la Germania con 80, l'Olanda con 57, eccetera eccetera. E l'Italia? L'Italia solo, io mi aspettavo molto di più onestamente, ma perché noi abbiamo molto la cultura del pane, secondo me. Cioè, se pensi a i diversi tipi di pane che ci sono in tutta Italia, cioè al nord è fatto in un modo, in centro Italia, tu dici che la focaccia con le cipolle non rientra in questa statistica? Non credo, penso proprio si parli di pane. E allora non vale. Solo tra i 29 e i 30 kg. Sì, ma non vale. Ma allora questo è il problema delle statistiche dell'Italia. Perché c'è il famoso detto, che non è neanche un detto, ma è un vero e proprio dato di fatto, che la domanda è: tu lo sai a che posto in classifica è l'Italia come stato con la presenza di mafia al suo interno? Immagino sia molto basso, se mi fai all'ultimo questa posto, okay. Esatto. Ma che mafia però? Ma la potenza di mafia in Italia? In generale, sì, esatto. Quindi è ovvio che noi risulteremo sempre bene nelle statistiche. Però magari, sai, poi se cerchi il consumo di glutine, magari ci sono altre mille forme, tra cui appunto la pasta, banalmente. No, però mi colpiva questa cosa e ti buttavo lì una riflessione sulla durata di vita media, che l'Italia è al secondo posto al mondo, tipo 82 anni, cioè come dopo il Giappone. Dopo il Giappone, che è nato tipo 84. Okay. Consumo di pane in Giappone è alto anche lì, invece. Sì? Che cazzo di pane mangia in Giappone? Un sacco di glutine. Mi sembra di aver capito. Allora niente, la mia riflessione finisce qui. Grazie mille a tutti. Grazie mille. In verità il glutine allunga la vita se non vi uccide. Ok, esatto, superata la soglia di morte. No, perché vedevo che comunque è più bassa rispetto al resto dell'Europa. Però ho cercato pane, effettivamente, non ho cercato glutine. No, infatti questa, mi ricordo, era una domanda particolare. Perché nonostante Italia e Giappone abbiano un elevato consumo di prodotti con glutine, allora vedi che tutte cazzate queste. Sì, infatti scherzo. Però appunto c'è chi si infiamma, c'è chi si accende e c'è chi se lo mangia tranquillamente. Detto questo, sicuramente ha molto più senso per tutti non mangiare sempre solo focaccia a colazione, pranzo e cena, ma ogni tanto anche quella con le cipolle o la pizza o cose del genere. Non è vero, Gio, non dare questi consigli. Perché fra poco è il momento della mia rubrica dei consigli. Ah, giusto, è vero, perché Gio l'abbiamo risparmiata nell'episodio pilota. Ma non è che ve l'abbiamo risparmiata, che gli è venuta in mente stamattina. Non è vero. E quindi niente. Quindi vabbè, insomma, in generale tiriamo un po' le fila di questa cosa del glutine. Le fila, allora. Si dice? Le fila. Tiriamo le fila del glutine. Tiriamo le gabbie glutiniche. Ma il seitan è full glutine, il vero? Seitan sono palle se di glutine. Se tu dai un pezzo di seitan a un celiaco, lui esplodi, parte il cazzo a razzo. Cazzo, vedi? Esattamente. Infatti in South Park nasce tutto da uno scienziato che estrae il glutine da una massa di farina e acqua. E gli viene detto: allora, se non fa niente, se è così innocuo, prova a mangiarlo. Lui lo assaggia ed effettivamente questa massa, se ci pensi, è, non so esattamente da cosa si ricavi il seitan, ma presumo dal grano. Io. Esatto. Metti la farina con un tot d'acqua e piano piano la filtri, togliendo tutto quello che non è glutine. Esatto. E rimane questa sorta di palla di glutine un po' collosa, e tu lo pulisci per tempo, impasti, pulisci, impasti, e rimangono pulisci solo le proteine del glutine. In teoria, se uno mangia se è veramente il glutine è infiammatorio, quando ti mangi un seitan dovresti effettivamente sentire cosa ti succede. Mai fatto caso, onestamente. Neanche non io. Che mangi tantissimo seitan. No, infatti, esatto. E di solito poi non ti mangi solo seitan, ma no, sempre certo, dentro verdure, qualcos'altro. Situazioni, cose varie. Dicevamo, vabbè, avevo questo dubbio sul seitan. Tiriamo un attimo le fila, ancora lo ridico. Tiriamo un attimo le fila. Allora, è un complotto, sicuramente, di produzione, di consumo, di diete varie. E questo perché va a impattare attraverso appunto la grande richiesta, come spiegava Joe, la grande richiesta porta a metodi produttivi che sì, prima microfoni spenti facevamo un esempio della valeriana. Cioè, è indubbio che il pane, così come lo zucchero lo è stato in passato, così come la carne, sono degli alimenti potentissimi, perché ti forniscono di una grande quantità di risorse necessarie a tirare avanti la tua giornata quotidiana. Ma nel momento in cui devi sfamare con quella cosa lì 7 miliardi di persone, devi inventarti un modo di produrre le cose e super efficiente, e quindi che preveda modificazioni genetiche delle piante piuttosto che degli animali, pesticidi per tenere lontano, o antibiotici per gli animali per tenere lontano eventuali parassiti dalla tua coltivazione o produzione. Sistemi di vendita capillari, quindi logistica, camion, supermercati enormi. Sì, quindi questo comporta il fatto che in generale qualsiasi cosa necessiti di overproduzione, devi trovare i metodi più economici e più funzionali. Esattamente. Ovviamente. E questo porta a, sull'argomento glutine, porta al fatto che i prodotti che si basano sul glutine richiedono, sono più facili da produrre, più glutine ci hanno, concettualmente, no? Giusto? Sì. In okay. particolare per il glutine è così, perché il pane ci piace con le bolle grandi, non ci piace una soletta secca o molle o che si rompe, con cui non riesce a raccogliere il sugo, tipo il pane nero, quello lì in fettine sottili che compri nei pacchetti di plastica, che fa benissimo, sì, però come cazzo lo uso per raccogliere il sugo? Come ci faccio un panino? Cioè, mi si sgretola in mano, non ha consistenza, non è croccante, è brutto. Una volta il pane probabilmente era brutto, probabilmente lo potevano mangiare più persone, oppure gli davano le brioche, come dicevo, oppure qualcuno. Gli davano le brioche, le croissant, e anche lì è assurdo, perché le croissant erano fatte col pane bianco e solo i nobili mangiavano il pane bianco, per tornare al discorso, perché ovviamente aveva delle qualità più particolari, mentre i poveracci c'hai anche la crusca e i semini, costa troppo toglierli, quindi fatti il pane come cazzo ti viene, è buono. Va bene, questo è il mio modo di tirare le fila. Va bene, allora è il momento ribellione. Ascoltiamo una canzone, poi il momento consigli, poi mettiamo un'altra canzone e chiudiamo. Va bene. Ci sparavamo quei video, ci guardavamo quei video delle fettine panate dopo aver fatto l'amore. Ci guardavamo quei video, ci sparavamo quei video delle fettine panate dopo aver fatto l'amore. Delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa. fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa. Ci sparavamo quei video, ci guardavamo quei video, la mattina, la sera, era la stessa storia. Ci guardavamo quei video, ci sparavamo nei video, delle fettine panate dopo aver fatto l'amore. Delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa. Ci guardavamo quei video, ci sparavamo quei video, delle fettine parate dopo aver fatto l'amore. Ci sparavamo quei video, ci facevamo dei video, delle fettine parate dopo aver fatto l'amore. Delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine pa, delle fettine. Ci facevamo quei video, ci facevamo nei video, delle fettine parate dopo aver fatto, dopo aver fatto l'amore. Voilà, le fettine pa. Esatto, tra l'altro questi erano i Tonno. Tonno. Che se ve li siete persi siete proprio dei celiaci. Esatto, perché hanno suonato qui settimana scorsa. E c'è o ci sarà, ci sarà in radio poi la registrazione però del concerto, quindi sì, non so se è già su oppure no. Non si sa, voi andatevela a cercare. Intanto vediamo che c'è in linea un ascoltatore che però beve del tè freddo e non si sa se vuole parlare. No, non penso. E vabbè, insomma, quindi recuperatevelo su Radio Exalgia. Sì, ultimo tiramento di fila. Last, ecco, blocco. Le fettine panate, ragazzi. Dopo aver fatto l'amore. Dopo aver fatto l'amore. Sì, però fate come i Camillas, cioè il pane fatelo voi, nel senso il pane magari no, che è uno sbatti atomico ed è difficilissimo da far venire bene in casa, però invece tipo le robe vegetariane, le polpette, quelle robe là, farle in casa è veramente facilissimo. Vero. E usi degli ingredienti, se li prendi tu prima, gli ingredienti per fare le polpette fatte in casa sono sicuramente molto migliori di quelle che sono già fatte. Esattamente, cioè le polpette vegetariane sugli scaffali, a parte che costano un botto e sono segatura, e invece se ve le fate a casa sono molto più buone, fanno molto più bene, vi fanno fare l'amore e secondo me costano anche meno. E costano un botto meno, sì sì, assolutamente. Detto questo, rubrica dei consigli. Che questo già era un consiglio comunque. Questo era bellissimo, sì, sì, bravo. Sì. Detto questo, allora, per oggi avrei un paio, forse tre consigli massimo, tutti Madonna, relativi al complotto del glutine. E sono: numero uno, andate in bicicletta contromano e attraversate sia in bicicletta che a piedi, in generale, più semafori rossi che potete. E ovviamente, ottimo, cioè, non è che dovete attraversare il semaforo rosso quando passano le macchine, ma non fermatevi quando è rosso e c'è la strada deserta. Dobbiamo piano piano poi riappropriarci delle strade in quanto pedoni, perché se qualcuno arriva e ha dei cavalli sotto il culo, dai 20 ai 120 cavalli sotto il culo, parlo, non ha nessun diritto di avere la precedenza su di voi se siete in bici o a piedi, e se siete in bici la precedenza ce l'ha chi è a piedi. In generale, questo è il mio svarione etico. Se c'hai i cavalli sotto il culo devi darmi la precedenza, non mi importa se ci sia ciclabile, che sia contromano, che sia a piedi, che sia rosso. Per me la legge universale dovrebbe essere: hai voluto i cavalli, mi rispetti. Sono d'accordissimo. Smettetela di bruciare petrolio per muovere il culo. Sono d'accordissimo. E basta, questo si ricollega al discorso che ci dovrebbero essere più infrastrutture a basso costo, quindi più cibo salutare a basso costo per evitare... Boh, non so, mi sono perso un attimo. Comunque questi erano i miei consigli. Per evitare la, poi di prendere la creazione, cioè meglio, la diffusione esagerata di problemi tipo appunto la celiachia, cioè. Il traffico, l'inquinamento. Quelle robe lì. Concordo pieno. Bravo, bei consigli. Però appunto da un lato c'è il consiglio di far partire le cose dal basso, quindi consumate in maniera responsabile, quello a priori perché fa bene a ognuno di noi. Dall'altro c'è, da soli non facciamo un cazzo, quindi serve un bel intervento dall'alto. Per ricevere quell'intervento dall'alto bisogna scendere per le strade con i forconi e le torce, perché altrimenti non cambia mai un cazzo. Non aspettiamoci che i produttori di hamburger sì facciano la rivoluzione per noi. Esattamente. Quindi detto questo, last track. Yes, last track, pezzo pesantissimo, forse il mio disco preferito di sempre, che è Spiderland degli Slint, che sono questa band epocale che hanno fondato il post rock, tendenzialmente lo slowcore. È un pezzo di tipo 6 minuti, bello intenso, che si chiama... l'abbiamo scelto perché si chiama Breadcrumb Trail. Yeah, c'è un po' di violenza? Sì, ma sei proprio cazzo. Nel pezzo. Perfetto. Bella, e viva l'ora del complotto, viva il glutine. E viva i celiaci. E bella. Ciao, alla prossima. platform.